Allora, sono qui al Museo della Magia, sono Don Silvio, il Mago Sales, e vorrei illustrarvi veramente quello che c'è qui a tutti i presenti, però purtroppo è arrivato Geronimo. Grazie. Amiche e amici del ciclismo, del Giro d'Italia, degli uccellini che cantano all'imbrunire della magia e del Mago Sales e delle cornucopie, del vino, delle vigne, delle famiglie e di tutto quell'altro di cui vorrete essere amici, benvenuti a una nuova puntata che è la tappa numero 3, ma la puntata numero 4 di Gironimo, il podcast dedicato al Giro d'Italia 2024 di Al Vento Italian Cycling Magazine con il supporto amorevole di Shimano. Siamo al Eco Relais Vigne di Fagnano, posto pazzesco. Splendido. Che ci ha accolto e su cui torneremo molto probabilmente, e siamo qui seduti molto rilassati, molto stanchi e molto affamati. Io sono Filippo Cauz, alla mia sinistra c'è Leonardo Piccione, eccomi, ciao a tutti. Di fronte a me in maglia verde c'è l'acclamatissimo per tutti i suoi nomi, ma noi lo chiamiamo semplicemente Tommaso Pelacci. Ciao a tutti. Perché Tommaso? Perché dopo lo scoprirai, scopriamo. Dovresti già saperlo. Sempre in maglia verde, ma è un giacchettino che è stato recuperato grazie a diverse peripezie. Di fronte a me c'è Marta Bacigalupo. Avrei detto la nuova autista. La nuova autista, appena fresca di esordio alla guida del gigantesco e sovradimensionato furgone di Alvento che ci porta in giro per il Giro d'Italia, ma che ci permette di caricare i bagagli con comodità, che comunque è già qualcosa, no? È già qualcosa, come è qualcosa il fatto che questa puntata sia iniziata con la voce del Mago Sales e oggi a Fossano ha vinto il mago Merlir. Poi capiremo di più di questo soprannome affibbiato a Team Merlir, vincitore in volata oggi. Ho preparato l'acrostico anche oggi, dovete sentire? Quando c'è un acrostico come si fa a dire di no? Allora, sono goloso di acrostici. Fossano, F-O-S-S-A-N-O. Forse oggi senza sorprese? Punto interrogativo. Ah, no, ok. Bellissimo, perché cioè, parti con fo e finisci con no. Cioè, si può fare addirittura un multiacrostico. Non voglio instradarmi in strade che non conosco della lingua italiana. Metacrostico. Un metacrostico addirittura. Mamma mia, che partenza sprint che abbiamo avuto. La tappa lo richiedeva, insomma. Allora, facciamo così, andiamo a vedere cosa è successo in questa tappa e chi meglio di Michele Florindo eccetera eccetera ci può descrivere quello che è successo in questa frazione. Intanto partiamo con la notizia di un forfè, perché non è partito da Novara stamattina Eddie Dunbar, che a seguito di una caduta ieri è arrivato attardato a Europa. Calmejan e Ballerini vanno in fuga con pochissima convinzione. Il gruppo arriva a metà tappa circa e un po' spaccato. E per così dire, in testa si trovano molti velocisti, avvantaggiati addirittura su Pogacar. Inoltre, Audiobrooks è rimasto addirittura in un terzo gruppetto. L'allarme però rientra presto. Pogacar vede la Ineos lavorare in vista del traguardo volante di Carrasco e sprinta per guadagnare 2 secondi di abbuono lui, 1 per Mr. G. Il gruppo compatto si invola quindi verso Fossano. Arensman fa il ritmo sul chilometro 5%. Quasi alla fine della salitella attacca chi? Mikkel Honoré, e lo seguono niente meno che Pogacar in prima battuta e di conseguenza Thomas. Honoré finisce presto la benzina, Poggi e G continuano nella loro azione. Il gallese nel momento decisivo non dà un cambio e ai meno 250 metri vengono ripresi da un gruppo quanto mai furibondo nell'inseguimento. Trentin lancia la volata a Dainese, Milan pensa che quello sia il treno giusto e fa la volata per primo. Tra i velocisti di punta ne ha da vendere Jonathan Milan, ma parte appena troppo lungo, lo beffa quindi di poco Team Merlier. È un riassunto molto ricco, perché è stata una tappa più ricca e più movimentata di quello che pensavamo, soprattutto nel finale. Cominciamo come al solito con una carta dei nostri tarocchi, la nostra giromanzia. Marta ci aiuta attraverso un tarocco a delineare un tema o il tema sintetico di questa tappa. Marta, qual certo, è la carta? Ma poi oggi ho avuto modo di trovarmi nell'ambiente giusto, di discuterne con un collega, con il Mago Sales, poi appunto lo sentirete. Allora, la carta che abbiamo estratto oggi è la forza, è l'arcano della forza. La forza parla della forza morale che si trasforma nel potere creativo, e a me diciamo che l'allungo finale è sembrato piuttosto creativo, forse lo è sembrato anche ai velocisti, però porta anche al controllo di ogni eccesso e quindi a ristabilire l'ordine e alla serenità del difendere una giusta causa, quella della volata. Quindi le lotte sono vittoriose, in questo caso per Tim Merlier, e le difficoltà si superano grazie ad azioni audaci e determinate. Quindi c'è il trionfo dell'intelletto sopra la brutalità, quella di quel pazzo del nostro amico Taddei. È un inizio creativo, è una nuova energia. Tanta energia riversata sulla strada verso Fossano, sintetizziamola con l'ordine d'arrivo di questa tappa, ha vinto Tim Merlier su Jonathan Milan e Bini Girmay. A seguire Jente Biermans, Lund Andresen, Olaf Koi, Ethan Vernon, Aniol Kowski della Cofidis, Gaviria nono e Dainese decimo. Classifica generale non modificata, non cambiata nelle posizioni iniziali, se non per qualche secondo di abbuono che Pogacar e Thomas hanno rubato, guadagnato sui propri avversari. Quindi Tadej Pogacar è in maglia rosa con 46 secondi di vantaggio stasera su Geraint Thomas. Terzo è Dani Martinez a 47 secondi. Quarto si sono scambiati quarto e quinto posto Einer Rubio e Kian Uijdebroeks, sempre a 56 secondi entrambi di ritardo da Pogacar. A seguire Lorenzo Fortunato, Juanpe Lopez, Ian Hirt, Alexei Lutsenko e chiude la top 10 Ben O'Connor della Decathlon. Comunque, Leonardo, hai parlato di maglia rosa, ma nessuno ha nominato i pantaloncini. Scusate, in quanto fashion police mi sento di dover fare questo appunto. A me sono piaciuti, a Cauz anche, credo. A me molto, qualcuno l'ha chiesto anche a Tadej Pogacar, ha detto che sono quelli che gli ha dato l'organizzazione. Perché, ricordiamo, i pantaloncini fucsia, ciclamino di Pogacar oggi, che aveva la maglia rosa. Poi non erano esattamente ciclamino, erano un po' più scuri del rosa, siccome non male. Comunque ricordiamo sempre che, perché poi sembra che sia una scelta, alle grandi corse a tappe tutti i materiali logati con le maglie di leader delle classifiche sono forniti dall'organizzazione, dati anche dal fornitore tecnico dell'organizzazione, che tante volte non è lo stesso delle squadre, per cui... Insomma, così, questa è stata la storia. Abbiamo parlato di moda anche oggi, era il tema di questo podcast. Possiamo salutarci e ci vediamo domani per la tappa numero 4. No, io ho qualcosa da dire. Si va verso la Francia, paese della moda d'altronde. Sì, ma diciamo qualcos'altro su oggi, perché passando da ciclamino a ciclamino, parliamo della maglia ciclamino, la nuova, quella vera, che Tim Merlier ha vinto. Aveva vinto a Novara l'ultima volta al Giro d'Italia, sì. E oggi si partiva da Novara e lui ha vinto di nuovo. Sì, non se lo ricordava, gliel'ho chiesto io, non se lo ricordava lui di aver vinto a Novara, me lo ricordavo io che aveva vinto a Novara. E vabbè, comunque dice che a questo punto cercherà casa in queste zone. Beh, può essere una buona idea effettivamente. Io fossi lui continuerei a correre in queste zone più che abitarci, che comunque... Cioè, sempre, a fare pressioni sugli sempre... organizzatori affinché ci sia sempre, sì, una tappa con che il comune di Novara, perché stanzi fondi, basta che non tolga fondi a Novara Jets. Se diventa così io divento nemico di Tim Merlier, ma non ci avventuriamo in fantapolitica in questo momento. E Tim Merlier ha fatto una volata ottima ai limiti del perfetto, nel senso che l'abbiamo vista poco perché col fatto che c'era lo sciopero in televisione, appena finita la prima replica hanno chiuso la diretta, per cui non abbiamo visto troppe repliche, non ci sono state grandi analisi, ma ha saputo veramente scegliere il momento giusto e il lato giusto, e qui si è vista la differenza tra un velocista scafato, anche capace di muoversi in contesti convulsi, qual è Tim Merlier, e un velocista che ha una potenza mostruosa ma ancora molto molto da sgrezzare come Jonathan Milan, che invece anche questa volta si è fatto trovare al vento, non nel senso della rivista, ma nel senso della fatica, con un centinaio di metri d'anticipo. Per chiudere sulla volata dobbiamo comunque ricordare la dedica che ha fatto Tim Merlier, di cui gli abbiamo anche chiesto in conferenza stampa. Ha fatto con le dita la V per ricordare Wouter Weiland, compianto belga che purtroppo perse la vita sul passo del Bocco. E tra l'altro ovviamente lui era troppo giovane ma ricorda bene appunto il fatto, e soprattutto il suo DS, Ilo Keyse, era appunto, lo conosceva bene, correvano insieme. E pare che anche la precedente sua vittoria in Italia avesse avuto la stessa dedica. Ci ha detto che è importante comunque che Wouter non sia dimenticato. Sì, ringraziamolo per tenere viva la memoria che Merlier tiene anche di un altro grande campione belga, di un'altra grande dinastia belga, per cui adesso iniziano 45 minuti di questa puntata che sono dedicati all'albero genealogico della famiglia Van den Broek, che ci terrei a decantarvi per intero. Vado velocissimo, parlo come Pelacci per tenervi vicini. No, però mi interessa perché è veramente un'epopea familiare quella dei Van den Broek. Vi consiglio davvero di leggere Dio è morto di Andy McGrath, che la ripercorre un po'. Perché parlo di Van den Broek? Perché avrete visto all'arrivo Tim Merlier baciare una ragazza bionda e accarezzare un bambino. Quel bambino è Jules Merlier, che è figlio di Tim Merlier e di Cameron Van den Broek. Cameron Van den Broek è la figlia di Frank Van den Broek. Frank Van den Broek è il figlio di Jean-Jacques Van den Broek, ex corridore, fratello di Jean-Luc Van den Broek, che è ex corridore anche lui, e di Jean-Paul Van den Broek, che non ha mai corso. A loro volta hanno tutti figli e nipoti che sono stati professionisti, ex professionisti o dilettanti. E veramente, quando si vuole definire come in Belgio, in certe zone del Belgio, il ciclismo sia una questione di famiglia ed ereditaria, andatevi a cercare l'albero genealogico della famiglia Van den Broek, che prosegue, perché a questo punto io mi aspetto che il buon Jules Merlier, visto baciato quest'oggi, ma nato il 1 febbraio del 2023, ancora un po' giovane per gli esordi ciclistici, possiamo aspettarci che faccia qualche bel numero in bicicletta un domani. Vabbè, ma stanno chiaramente tentando di selezionare geneticamente la razza pura del ciclista. Forse, ma per chiudere il discorso sul vincitore della tappa, Michele ha chiesto un chiarimento su questo soprannome, che poi abbiamo scoperto in realtà essere solo italiano, questo di Mago Merlier. Cosa ti ha risposto quando gliel'hai chiesto? Mi ha risposto che in realtà lui Mago non l'aveva mai sentito, era chiaramente insomma un po' stranito da questa domanda, non capiva nemmeno cosa volesse dire magician, per dire, no? E il suo soprannome ci ha rivelato è quello vero, è il razzo di Vortegem, mi ha detto anzi Filippo Kautz, esperto di Fiammingo o Vallonia, comunque. Andiamo oltre, ti va Leo, alla cosa principale? Direi che forse è la cosa migliore, no? Alla cosa più importante, forse, oltre alla volata, no, della tappa. Intanto diciamo, vabbè, Mago Merlino lo diciamo solo in Italia. Nelle altre lingue si usa dire solo Merlino o Merlin o quello che volete, quindi Mago Merlino è una cosa che funziona, e quindi Mago Merlir solo in italiano. Questa è la spiegazione del mistero, se vogliamo, di questo soprannome. Ma passiamo all'azione precedente la volata, che ha condizionato in parte la volata, ma che ci ha dato uno spunto, più spunti riguardo la classifica generale, perché si sono mossi i due principali protagonisti per la vittoria del Giro d'Italia in una tappa in cui nessuno si aspettava si sarebbero mossi. Tadej Pogacar e Geraint Thomas hanno seguito. Quindi Honoré non è uno dei protagonisti per la vittoria del Giro d'Italia? Forse lo sarà. Per il momento è colui che ha provocato, no, il motore di questa azione che abbiamo visto nel finale, perché è stato quello che ha attaccato sullo strappetto verso Fossano, e poi Pogacar prima e Thomas poi l'hanno seguito. Ho fermato Mikkel Honoré, un nostro amico, un ragazzo che parla italiano, che è molto simpatico, e gli ho chiesto un po' cosa avesse in mente con questa azione che ci ha fatti così divertire nel finale di oggi. Come ti è venuta in mente questa cosa? Ci deve provare, perché alla fine ci sono poche occasioni questo giro, e sembra meglio provare, perché non si sa mai. Poi il fenomeno mi ha staccato quasi la ruota, però almeno non sono l'unico in gruppo che fa fatica dietro lui. Ma l'avevi programmata questa azione? Sì, avevo programmata. Problema, non sono entrato benissimo in posizione all'inizio della salita, quindi ho dovuto fare una forza in più, però sono contento almeno di aver provato qualcosa. La prima parola, una sola, in italiano, che ti è venuta in mente quando hai visto Pogacar dietro di te? Grinta. Grazie, bravo. Grazie. Bravissimo Honoré nel suo italiano, anche nel dissimulare, perché io non credo che fosse quella la prima cosa che gli è venuta in mente in italiano. Ho avuto questo dubbio anch'io, però hai detto grinta. Giulio Ciccone, in una sua famosa simulazione, una sua famosa dissimulazione, era stato meno creativo ma creativo anche lui. Ad ogni modo, un'ora è partito, gli sono andati dietro Pogacar e Thomas, e lì si è creata questa azione che veramente ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Chi mai si sarebbe aspettato in una tappa come questa due corridori di questo tipo? Dico due perché Pogacar forse ce lo potevamo anche aspettare, ma Geraint Thomas che va a rispondere, a rilanciare in una situazione del genere, è veramente una sorpresa, e dice anche della qualità, della tigna di questo corridore. Del tarocco della forza. Comunque a me ha gasato tantissimo e mi è piaciuto anche molto sentire in conferenza stampa Tadej sempre parlare di rispetto. Quando parla di G, perché lo chiama G un po' come noi fans, ha parlato un sacco di rispetto. Geraint Thomas secondo me oggi è davvero straordinario. Non che ci fosse bisogno di dimostrazioni, però oggi una prova di una grandezza caratteriale e tattica allo stesso tempo di Thomas, straordinaria, perché lui ha dimostrato secondo me oggi che è qua per vincere il Giro d'Italia, non è qui per fare da sparring partner a Pogacar in questo suo tentativo di vincere ogni giorno, perché oggi 3 tappe su 3, 3 volte ci ha provato Pogacar a vincere la tappa. Thomas si è opposto a questa cosa perché l'ha seguito, non ha collaborato con lui, probabilmente perché non ne aveva abbastanza da dare un cambio a Pogacar, ma forse anche perché non voleva, nel caso in cui la loro azione fosse andata a buon fine, lasciare la vittoria di tappa all'avversario, amico. Interessante questo rapporto anche tra i due, come si sta evolvendo. Thomas scherza, no? Un po' come fa anche con Evenepoel, con questi giovani. La famosa bromance? Non lo so, potrebbe dare quell'impressione, ma secondo me Pogacar, Thomas, dietro questo affetto, che è vero, però nasconde una voglia di dare filo da torcere a questa peste terribile, a cui non vuole lasciare facilmente la vittoria, ed è molto bello questo. Scusate, ma bromance? Kautz, sei venuto nel mio Caruggio, cioè sei stato totalmente conquistato dal French Touch. È una parola giro. Che mi ha insegnato Leonardo Piccione al Giro d'Italia, per questo. Leonardo Piccione ti avrà insegnato bromance. Vabbè, adesso sugli accenti, è come vintage o vintage, nessuno sa come si dica correttamente. Ma quando l'avevo tirata fuori sta parola? Parlando di chi? Anni fa, ma io sono una persona che quando impara le cose le memorizza, non sono come Michele Pelacci che impara le parole in giapponese e se le dimentica 2 minuti dopo. Ma torniamo all'affaire, per restare al francese, tra Pogacar e Thomas. In che gallese, non è Benjamin, ma è Jehan. In gallese, Geraint Thomas ha scritto: ok ragazzo, ci siamo divertiti oggi, hai avuto il tuo divertimento, magari una giornata tranquilla domani, ti va? È stato divertente anche leggere questo. A me ha stupito come, rivedendo la tappa dai meno 4 in poi, Pogacar risponda a un attacco di Honoré. Che bisogno tecnico c'era di rispondere a quell'attacco di un corridore fuori classifica? Nessuno. Lui, però, l'abbiamo detto, è qui per emozionare, forse anche per dare spettacolo, per divertirsi lui e far divertire noi. La corsa va con lui. Segue lui, che questo è il faro di questa corsa, no? Anche oggi ha emozionato Filippo. Sì, ha emozionato. Poi secondo me si può anche, cioè va bene il fascino di Tadej Pogacar, di cui tutti siamo succubi, però si possono anche fare delle critiche ogni tanto, e possiamo ragionare su questa mossa che ha fatto. È vero che non ha nessuna necessità di andare dietro a Honoré. Io mi ricordo che commentavo, c'era Davide Cassani di vicino durante la conferenza stampa, ne abbiamo parlato un po', e anche Cassani diceva a Pogacar gli scappa la gamba e non è in grado di controllarsi in queste situazioni, no? E fa ridere come smentisca tutte queste nostre mille analisi, sarà qua, si risparmierà per il tour e tutto quanto, e poi invece questa arriva bam bam bam, e anche in un'azione assolutamente fuori luogo va lì e ci entra tutta, perché poi non è che ha risposto, ma si è messo in testa e si è messo a menare, ha chiesto il cambio più volte, insomma la voleva portare avanti questa azione. Nonostante abbia detto non ho attaccato io ho solo risposto, sì, a un altro attacco. Parliamoci chiaro, chi gli crede a questa sua ricostruzione? Ma chi gli crede? E boh, viene un attimo da ragionarci, evidentemente che l'energia ne ha a sufficienza, ne ha talmente di più degli altri che non deve limitarsi al contagocce. C'è da capire se questa cosa gli convenga, non tanto per il risparmio energetico, quanto perché poi bisogna mantenere relazioni interne al gruppo, e questo noi non lo sappiamo, non siamo interni al gruppo, per cui è difficile giudicarlo, e quanto questa cosa poi magari invece non sia un sintomo di una certa forma di nervosismo di Tadej Pogacar, che oggi in un qualche modo abbiamo anche ravvisato. Comunque tu hai parlato di risparmio energetico, e allora ovviamente devo raccontare una delle cose più buffe successe in conferenza stampa. Traducendo, si è parlato di dispendio di energia, e allora ha detto questo giro ti fa spendere troppo. E lui ha risposto: ma veramente io mi sento, sono già a 4 giorni di vacanza pagata in qualche modo. Sì, lui ha dato una serie di risposte così molto secche e acide, diciamolo pure. In un certo senso sì, anche a me. Io gli ho chiesto: Taddei, ma visto che è il terzo giorno che ci provi, vuoi provarci tutti i giorni? Pensi di poter vincere o provarci in tutte le tappe? E lui ha detto due parole: no comment. Che secondo me è un sì. Secondo me lui dietro questo no comment cela il desiderio o il progetto di tentare qualcosa in tutti i giorni di questo Giro d'Italia, in tutte le tappe. Se vuoi consolarti, posso dirti che forse l'ultima volta che ho avuto a che fare con Mathieu van der Poel in una conferenza stampa, a una lunga domanda che gli feci molto argomentata relativa ai suoi affetti e tutto quanto, la sua risposta fu no. Sì, ci sta. Comunque tu hai avuto due parole, guarda, non mi lamenterei. No, facevo riferimento anche alla risposta che citava Marta, che è stata sicuramente divertente, però ecco, io oggi ho avuto questa impressione in conferenza stampa, ho visto in Tadej Pogacar molto di Peter Sagan, ovvero di un corridore che sì, fa la battuta, sì, dice la cosa divertente, ma che cerca sempre di pizzicare il suo interlocutore. Con anche una punta di cattiveria, onestamente, perché anche quella risposta era una risposta a un giornalista che, forzandosi di parlare in inglese, ha usato il termine sbagliato. E non lo so, non è simpatico partire dall'errore altrui per rispondere con la battuta che in un qualche modo sottolinea l'errore altrui. Ecco, io l'ho visto un po' così Pogacar oggi, che sì, tirava fuori il sorriso, ma con quel sorriso in un qualche modo tirava anche delle piccolissime pugnalatine, quelle con lo stuzzicadenti. Vabbè, ma è un divo, è affascinante. Noi alla fine siamo affascinati anche un po' da questi caratteri forti, un po' pungenti. Poi io, vabbè, da quando ho visto che è stato paragonato dalla sua fidanzata a Ken, perché è vestito di rosa con gli sticker anche di le Ken. Scarpe rosa, sì, oggi parleremo di scarpe, tra l'altro. Sì, no, non vedo l'ora, ovviamente mi sto prendendo un sacco di appunti sulla fashion police del ciclismo. Basta fargli domande sulla musica a Pogacar. Cosa gli hai chiesto? Gli ho chiesto di Tony F, perché l'aveva fatto dopo la Sanremo, l'ha rifatto 2 giorni fa. Cosa ha fatto dopo la Sanremo? Postato una canzone di Tony F. Ha postato una canzone di Tony F. Boss, una canzone in cui si parla di come questo cantante voleva fare il boss, e Pogacar è un po' il boss della corsa, è quasi, non so, mi sembra il bulletto della classe. Scoop, ma comunque Pelacci quindi conosce, ha visto, cioè segue un cantante. No, mettiamola così, è meno rilassato di quello che pensassi. Questo forse possiamo dirlo, ha questa frenesia, probabilmente solo agonistica, perché a lui interessa vincere sempre e comunque. Oggi non ha vinto una tappa che ha provato a vincere e forse aveva questo, come dire, questa energia dentro, questa delusione sportiva proprio che gli viene da questo estremo agonismo che è poi l'elemento che lo muove più di tutti, oltre la gioia, il divertimento e tutto quello che già sappiamo di lui. Ma per concludere il discorso su Tadej Pogacar non possiamo non anche oggi dedicarci a questa rubrica che abbiamo chiamato Pogacario e Marta, abbiamo la seconda parte della tua intervista con Finalmente Alex Carrera. È il mio momento, è il momento del Pogacario, e mentre voi tentate di rubarmi gli scoop perché mi avete molestato anche durante questa intervista inserendovi con le vostre domande, noi siamo comunque andati a cercare di sapere di più su quel bel biondino, e adesso appunto attraverso la voce di Alex Carrera, che non ne ha parlato altro che bene comunque devo dire, sentirete un'altra parte. Anche stavolta vi ho dovuto lasciare un po' delle mie fonti, insomma. La prima cosa che gli abbiamo chiesto è se per caso, appunto essendo al giro, Tadej parlasse l'italiano, se cercasse di impararlo. So che lui conosce qualche parola d'italiano di più rispetto a me, di quello che conosco in sloveno, ma questo perché ha corso nelle categorie giovanili tantissime volte in Italia, ha vinto il Giro del Friuli. E quindi parla più italiano, pizza, pasta, ciao. Secondo me Urska lo parla molto meglio, cioè Urska capisce tutto, lui capisce molte parole però preferisce dialogare in inglese. Lui usa molto spesso la parola nice. La parola nice lo usa spesso, lo usa spesso. Nice guys, nice things, oppure very good job. No, usa queste due espressioni, probabilmente sono espressioni estremamente confidenziali, comunque è uno slang molto abituale, e probabilmente perché tante cose gli riescono anche bene e quindi sono anche più facile dire queste parole. Sappiamo che lui poi fa anche delle attività magari commerciali eccetera per devolvere fondi per... Tutti i soldi che Taddei riceve dai contratti personali li devolve al team Poggi da sempre. Questo perché? Perché nel 2020 quando ha vinto il Tour de France durante una cena con presente Mika Consiglia, il suo scopritore, il suo coach, ovviamente non era facile in Slovenia reperire fondi e lui decise che lui era un ragazzo fortunato, riuscito ad arrivare a vincere il Tour de France ed essere economicamente soddisfatto, non aveva bisogno di questi soldi extra che arrivavano dai contratti personali, ha detto io voglio dare l'opportunità a tanti altri ragazzi giovani, sloveni, bambini, di poter avere una bicicletta, un casco, un occhiale, perché non se lo potevano permettere. E quindi siamo andati in televisione a fare questo annuncio. L'unico problema è che non avevamo calcolato la portata di quell'annuncio e quindi sono arrivati in 24 ore un numero di iscritti, mi sembra che erano più o meno 100 e qualcosa, e che non avevamo 100 biciclette, 100 caschi, quindi abbiamo dovuto investire di più il primo anno. Ed è una grandissima soddisfazione per Taddei il fatto che tantissimi bambini, che sono oltre 200 oggi di varie categorie, corrono col suo nome. Ma sto ragazzo ce l'ha un difetto. Che gli piace vincere anche giocando a carte. Ci giocate a carte? A padel giochiamo. A padel, tu l'hai battuto qualche volta? Io e Urska contro lui Ciccone due volte a Singapore. Infatti non era molto contento, in verità però... anche perché è competitivo anche a giocare a padel. No, non faccio fatica a credere. No, ma gioca durante l'inverno, ha giocato spesso. Okay. Anche perché gioca anche Urska e quindi è una cosa che possono fare insieme. Calcio invece non ha mai più giocato. Io non penso che dopo gli ultimi, anche perché non è coperto assicurazione giocare a calcio. Quindi sarebbe pericoloso. Padel sì invece. Il padel sì, non è uno sport considerato come gli motori o come calcio che le assicurazioni non te lo coprono in caso di infortunio. Ma dorme ogni tanto o fa sport 24 ore al giorno? No, dorme e ti dico che credo che non fa fatica neanche ad addormentarsi. E questa è un'altra qualità che hanno soprattutto i corridori delle corse a tappe. Grazie mille. Grazie, no. Grazie mille. E dunque sì, Pogačar va così forte perché non vuole perdere mai, va così forte perché è fortissimo, scusate la semi in ripetizione, insomma come si dice nel ciclismo Pogačar è uno di quelli che non sente la catena. E questa è un'osservazione che abbiamo fatto noi, ma guarda caso l'ha fatta anche, tieniti pronto Michele Pelacci, il nostro sensei. La parola del giorno. 今日の一言. Catena. Chain. Chain. Io non so se il sensei ha sentito le prime puntate e ha deciso di metterti quelle facili. Comunque, catena. Chain. Che è uno dei vari modi con cui si può chiamare White Brooks. Sei d'accordo? Chen! Così. Non so, potrebbe avere delle origini giapponesi. Sembra inglese. In inglese credo proprio chain, che sia un derivato dall'inglese, perché ci sono diverse parole del vocabolario giapponese che derivano dall'inglese. Non l'avrei mai detto. Non l'avresti mai detto. Esiste anche un termine per definire queste cose, se ne è parlato oggi nel nostro gruppo Telegram, ma purtroppo non ho attivato l'hotspot, non riesco a risalire, per cui iscrivetevi. È un buon motivo per iscrivetevi al nostro gruppo Telegram. Scrollatelo in su e una volta che siete nel nostro gruppo Telegram, seguite le nostre precise indicazioni per portarci degli omaggi e delle cornucopie, cosa che per esempio oggi ha fatto Emanuele alla partenza di tappa, che ci ha portato i biscotti, e adesso noi arrivati in albergo abbiamo trovato un sacchettino del buon Oscarin con dentro del vino, dei formaggi e dei salumi. Meraviglia. Cioè, meraviglia. Grazie. Meraviglia voi che ci ascoltate e ci riempite di amour, e ve ne saremo grati per sempre. Abbiamo fatto anche un altro incontro pazzesco sulle strade con le forze dell'ordine, ai meno tre che ci hanno avvicinato. Mi hanno chiamato per il mio nickname di BQ e io mi sono subito agitato, ho detto cosa ho fatto, avrò fatto qualcosa che non va, e invece era appunto un amico di Alvento e un amico del fantaciclismo sotto mentite spoglie. Purtroppo non aveva cornucopie, ma ci ha fatto passare. Pornocopie comunque non era niente male. Va bene, portateci anche quelle nel dubbio. A questo punto abbiamo parlato di incontri pazzeschi, sentite qua. Te lo dice Franco, che è sempre Franco. Ciao followers, benvenuti e bentornati al nostro angolo di Franco in compagnia di Franco. Chi è Franco? Ehi, sono io Franco. Forza Franco! Oggi voglio proprio rispondere a una domanda che mi fate spesso. Spesso mi chiamate e mi dite Franco. Ehi Franco, non riesco a capire perché non ho voglia di portare a spasso il mio cane. Perché? Perché? Lo stai chiedendo a me? Vuoi la risposta? Volete davvero, follower, conoscere questa risposta? E allora io ve la do. Prendete i fazzoletti. Franco non fa sconti a nessuno. Grazie, Franco! La risposta è... non ne avete voglia. È questa l'amara verità. Il cane vi secca con le sue esigenze, le sue passeggiate, e voi siete stanchi, siete pigri. Hai detto pigri? Sì, sì, ho detto pigrizia, sì. Allora, caro follower, ascoltami bene, ascolta Franco. Eccoti la motivazione del giorno. Forza Franco! Di a te stesso, io non sono pigro, come tutta quella gente che si dice che è pigra. No, io posso cambiare il tuo destino. Vai, vai, cambialo! Io porterò a spasso il mio animale da compagnia affettuoso. Vai, vai adesso! Bravo Franco, lo farò! Ora che ho risolto anche questo problema, vi do appuntamento al prossimo podcast in compagnia sempre di me stesso, ovvero... di Franco. Grazie Franco, grazie Franco, grazie. Non temete, Franco torna. Ma chi è questo tizio? Ma perché si è infilato nel nostro podcast? Non lo so, però ci ha dato dei consigli su come portare a spasso il proprio animale da compagnia. Io ne ho una serie e a questo punto vorrei salutare anche tutti gli altri, per cui io lo trovo interessante. È un motivatore, come se avessimo bisogno di ulteriori motivazioni. Giro Italia, Leonardo Piccioni ha bevuto 32 caffè quest'oggi, cosa abbiamo bisogno qui, di 5 altro? Ancora. 5 solo per ora. Per ora 5, per ora 5. Chissà no, Franco. Sorprende, no, mi preoccupa il fatto che Franco torna e sì, no, si auto-invita anche un po' paura quando non dovrebbe. Vabbè. Ritorno. Vabbè, e d'altronde stavo parlando di personaggi che abbiamo incontrato quest'oggi. Tanti li abbiamo incontrati di persona. Franco è arrivato così, ma noi stiamo su quelli che abbiamo incontrato. Poi dopo magari a un certo punto ricominciamo anche a parlare di ciclismo. Sì, parliamo del grande incontro che abbiamo fatto oggi sul percorso di gara. Nei pressi dell'arrivo, a pochi chilometri da Fossano, ci siamo fermati nella ridente Cherasco, dove ha sede il... Cherasco. Che è anche un'espressione di meraviglia, immagino, di, meraviglia. Di stupore. Ma... a Cherasco ha sede il Museo della Magia, il più grande museo della magia d'Europa. E abbiamo incontrato il fondatore, direttore e animatore di questo museo, che si chiama Don Silvio, e questo è il resoconto della nostra interessante chiacchierata ed esperienza al Museo della Magia. Eccoci, dove siamo? E dove siamo? Nel luogo del mistero, Museo della Magia di Cherasco. E con chi stiamo parlando? Sono io, no? Il Mago Sales. Eccomi qua. Mago Sales. Mago Sales. Da dove viene questo nome? Da Salesiano. Io sono un prete salesiano, meglio, sono un mago che fa scherzi da prete. In che senso? Nel senso che uso la magia per aiutare i bambini del mondo. L'ho sempre fatto, oramai da anni, girando il mondo e regalando sorrisi. Posti come la Somalia, la striscia di Gaza, ultimamente così tristemente alla ribalta, l'Ucraina o la Cambogia con Pol Pot, proprio in cui i bambini, ecco, non sorridevano più. Meglio, non giocavano più nemmeno la guerra, perché la guerra aveva messo in gioco la loro vita. Perché comunque la magia per far scomparire le guerre non l'abbiamo ancora trovata. Purtroppo no, ecco. E dentro il cuore dell'uomo non c'è una bacchetta magica. Possiamo quantificare quanti anni sono esattamente che è diventato prete e mago? Sono contemporanee le due cose? Sono gli anti, allora sono 60 anni di giochi di magia, 50 di messa, di prete. Ah, quindi viene prima la magia? Sì, viene prima la magia, sì. Anche perché quando ero piccolo mia madre mi diceva sempre sparisci, e lì capivo che potevo anche fare. Poi me l'hanno detto altri, ma è un'altra storia questa. ci dica qualcosa in più su questo museo. Che cosa c'è in questo museo? È grandissimo, sembra. È il più grande d'Europa. Anzi, nel mondo non sono molti così. C'è quello di David Copperfield, però lì è un'eccezione. Ha delle meraviglie, ma le fa visitare solo lui. Invece qui è aperto proprio al pubblico. Cosa vedono qui? Vedono un po' di storia della magia, ma mescolata anche a un qualche cosa che loro possono fare. Le persone volano, le statue parlano, ma veramente, no? Così realizziamo questo attraverso dei trucchi. C'è qualche trucco che prevede una bicicletta? O sì, sì, io pensavo proprio a questo. Allora, noi abbiamo un mazzo di carte, che è il classico mazzo di carte dei maghi, meglio anche delle case da gioco, e si chiamano bicycle, perché c'è una bicicletta e il jolly è un re che va in bicicletta. È possibile fare una dimostrazione di un gioco qui dal vivo? Ci sono delle cose che possiamo trasmettere attraverso il pensiero. Ecco, provate a immaginare, e quindi ve lo dovete vedere, se lo immaginate di fronte a voi, un attrezzo di lavoro. Un attimo, un Michele, attrezzo lo stai immaginando? E poi un colore. Allora, adesso abbina il colore all'attrezzo del lavoro. E io cerco di indovinare che cosa tu hai avuto in mente. Incredibile. Tu hai pensato a un martello rosa. No, rosso. No. C'è la possibilità che non è. Però deve essere un'interferenza, perché io avevo pensato a una cosa rossa. Cui vedi. Ha interferito. Ma alcuni. Mettiamo un numero tra l'1 e il 10, il primo che viene. Il numero 7. Bravissimo! È vero? Sì. Io però penso... Mago, scusi, come ha sbagliato? Ma non tutti riescono, ci sono delle eccezioni. Riusciamo a dare uno sguardo velocissimo a una stanza? Non abbiamo di più tempo. Allora, la magia è anche illusione, capacità di creare una visione diversa da quello che è, mettiamo, no? Ecco, abbiamo qui due soggetti, ecco, tutto illuminata, la persona incredula. Il Tommaso della situazione. Vieni. È qua. Vieni. Si chiama Michele, detto Tommaso. Michele Florindo Callisto, detto Tommaso. Allora, Michele Tommaso. Allora, pronti? 1, 2, voilà. Mi dica qualcosa dei tarocchi. Interessante. Beh, la storia dei tarocchi è molto antica, ecco, no? Però i tarocchi raccontano un po' la vicenda dell'uomo. Allora sono stati presi così come... un predire, no, quello che succederà. C'è tutto lì dentro. Noi facciamo un podcast, un programma sul Giro d'Italia, e cerchiamo di prevedere ogni sera chi può vincere il giorno dopo. Cosa possiamo inventarci per essere più accurati nelle previsioni? È vero che è una bella domanda. Io dovrei seguire questo. Io a calcio e a sport non ci capisco niente, no? Senta, Mago, una domanda devo fargliela. Cosa c'è nel cappello? Il cappello è completamente vuoto, no? Ecco. Io lo uso perché per i bambini il cappello è tutto. Senza il cappello uno non è mago, no? E unisco il cappello alla voce, per cui se io tolgo il cappello se ne va via anche la voce. Come metto il cappello viene anche la voce, no? Uno deve legarlo. Vero? Qual è l'augurio, il saluto che si fanno i maghi quando vanno via? Si dice... che la bacchetta magica ci aiuti a realizzare i nostri sogni. Quello sia così. Dai, grazie mille. Ognuno ha un sogno, ecco. Credersi prima di tutto. Dai. Grazie. Va bene, a voi. Consiglio gentilissimo. Arrivederci. Or dunque, abbiamo anticipato un po' ciò che ci è successo nel corso del pomeriggio e della giornata, perché è stato qualcosa di magico. Adesso torniamo un attimo, facciamo questo passettino indietro, torniamo a questa mattina che è iniziata, come spesso e volentieri capita, alla partenza della tappa del Giro d'Italia, dove abbiamo fatto alcuni incontri, il primo dei quali è, diciamo, una nuova rubrica che qui inizia e qui finisce in questo podcast. Vi promettiamo che la smettiamo con le rubriche, anche perché c'è chi ci insegue per dirci basta rubriche, per favore, che è la rubrica del fact checking. Perché sì, come... No, prego, prego. Come vi ricorderete, la puntata numero 1, quella relativa alla prima tappa, abbiamo parlato con Benjamin Thomas e abbiamo parlato... Benjamin Thomas, o Thomas Beniamino Benjamin. Tommaso. Come volete. E abbiamo parlato di tante vicende casalinghe, quotidiane, della sua vita che è condivisa con la sua compagna Martina Alzini, ciclista a sua volta, grande ciclista a sua volta. Della Cofidis a sua volta. Della Cofidis a sua volta. Questa mattina abbiamo incontrato Martina Alzini con sua nonna. Lei era molto contenta di essere nell'area bus perché ha portato sua nonna e le ha fatto vedere Jonathan Milan. È andata a salutarlo e poi le ha detto: guarda nonna come è alto. E nel mentre di tutti questi incontri ha incontrato anche noi, che forse siamo stati meno interessanti. Jonathan Milan non lo so, ma ci ha offerto l'opportunità di fare del fact checking, cioè verificare se quello che ci aveva detto Benjamin Thomas, il suo compagno di vita, era vero rispetto a cosa mangiano, cosa cucinano e altre curiosità che adesso ascolteremo. No, perché abbiamo intervistato Benjamin l'altro giorno. Wow. A lungo, è stata una bellissima intervista. Parla, quando gli dai ruota libera parla. E a questo punto facciamo il fact checking con te. Sì. Allora, una cosa, lui dice che era un ottimo cuoco, ma da quando avete preso il bimbi non cucinate più niente. Allora, intanto ci tengo a precisare che il bimbi è mio ed è stato il mio migliore alleato in quarantena, perché mi ha fatto compagnia ed era il periodo dove si era a casa, quindi ricette a gogo e da lì dopo, vabbè, si è appassionato anche lui. Devo dire che per essere francese cucina molto bene. Il ragù ottimo. Senso per essere francese. No, lo prendo sempre in giro, ci mancherebbe, però dai, possiamo dirlo che la cucina migliore è quella italiana, non ce n'è. Rispetto tutte le culture, però la cucina migliore è la nostra. Lui ha menzionato un risotto, qual è nello specifico quello che gli viene meglio? Aia, cioè proprio, oh ma ragazzi, quante cose ho detto, il mio cavallo di battaglia è il risotto con le pere, con un po' di formaggio cremoso dentro e le pere. E c'è la nonna Giusy, nonna vieni qui un attimo. Finalmente la nonna Giusy. Mi chiedono com'è il mio risotto con le pere. Stupendo. Ecco, e se lo dice una nonna italiana vuol dire che, no? Invece secondo me è qui la nonna Giusy, non so se entra in gioco, sì. Ci ha parlato anche delle sue e delle tue passioni musicali. Aiuto, e io ne ho solo una. Si chiama Gue Pequeño e rap italiano, c'è poco da fare. L'ha menzionato, fine. Corrisponde, anche, fine. Anche Marra. Gue e Marra sono lì, poi c'è tutto il resto, fine. Questo magari non ditelo alla mia nonna. Bene, allora confermato. Confermato. Fact checking. Approvato. Farò anch'io il giro. Ah sì? Sì, farò anch'io il giro. Un po' più in là, però sì, farò anch'io il giro. E lui verrà a sostenerti. Speriamo. O si sta preparando per le Olimpiadi, o se al giorno di riposo costringeremo a venire. Costringeremo. Sì, la nonna c'è comunque. La nonna c'è. Grazie mille. Ciao, buona grazie. Giornata. Grazie, buona giornata. E sì, perché è finito un giro, ne inizia un altro, che è il Giro Donne, che non seguiremo con un podcast che io sappia. Poi spero che Davide e Marta non mi chiami e mi dica che io devo seguire anche quello, perché sarò già stremato alla fine di questo. Ma faremo il tifo sicuramente, lo seguiremo da appassionati e faremo il tifo per Martina Alzini. Facciamo il tifo un po' in questo Giro d'Italia per un corridore che io avrei tifato tantissimo per il suo soprannome, perché avevo letto che il suo soprannome era lo scoiattolo di Lanzada. Bellissimo. Ecco, non è vero, cioè resta bellissimo, anzi usiamo, imponiamo, come Pelacci sta cercando di imporre il mago come soprannome di Merlier, noi cerchiamo di imporre il soprannome lo scoiattolo di Lanzada a Andrea Pagioli, con il quale abbiamo chiacchierato un po' questa mattina ed è stata l'occasione per sottoporre questo strano esordiente, perché ha già corso un po' di corse a tappe, ma è la prima volta che è al Giro, al nostro test d'ingresso. Andrea Pagioli, buongiorno, benvenuto al Giro, tuo primo Giro, tu che sei ormai già esperto di corse a tappe, ma il primo Giro d'Italia. Sì, esatto, primo Giro, fa un po' strano dirlo dopo 4 anni da prof, però sì, sono felicissimo di essere qua con tutti i tifosi. In queste 2 tappe il pubblico era veramente tantissimo e bello, bello. Giro con una squadra nuova. Sicuramente una grande esperienza, però c'è una persona che forse ti manca, che è Fausto Masnada. Come va il vostro rapporto adesso che non avete la stessa maglia? Sì, esatto, io e Fausto abbiamo un bellissimo rapporto che è rimasto lo stesso anche se siamo in squadre diverse ora, e sinceramente sì, un po' mi manca perché era uno di quelli che mi dava moltissimi consigli, però nonostante ciò ci sentiamo lo stesso, siamo in ottimi rapporti. Ti ha scritto in questi primi giorni di giro? Per ora non ancora, ma so che prima o poi io e lui lo faremo. E invece tuo fratello, che ha appeso la bici al chiodo e adesso ha intrapreso una professione completamente diversa, fa pentole in pietra ollare per aver trovato il tornio di famiglia. Tu con il tornio di famiglia che relazione hai? Nessuna relazione, per ora mi concentro solo sul ciclismo e lui invece ha preferito smettere 3 anni fa, se non sbaglio, e dedicarsi a questa attività che va molto bene, quindi è contentissimo così lui. Cioè non hai mai provato a usarlo il tornio? Mai, no. E quindi stando nella metafora, cosa bolle in pentola nel tuo Giro d'Italia? Ma come detto prima, l'obiettivo è quello di magari centrare una fuga per poi giocarmi la vittoria della tappa. Magari adesso queste 3 tappe saranno in teoria volata, e però quella delle strade bianche di giovedì potrebbe essere già data a me. Ho letto che c'è un'altra cosa che invece condividi con tuo fratello, che è la passione per i rettili, è vera questa cosa? Io un po' meno, lui invece è proprio veramente un appassionato e sì, la condividiamo. Quali rettili? Ma un po' tutti, qualche anno fa avevamo anche un serpente in casa e invece fino a 2 anni fa un drago barbuto, che è una lucertola. Chi è il serpente del Giro d'Italia? Cosa intendi per serpente? Ah, me lo devi dire tu. Non ne ho idea. E della Lidl Trek non ne hai idea lo stesso? Ti dico Milan. Ok, fin qui erano le domande facili, adesso faccio le domande difficili, sì. Completa la frase, hai voluto la bicicletta e adesso? Pedala. Che cosa vuol dire indossare la maglia nera? Essere l'ultimo della classifica. Quale di questi ingredienti non va nel pesto alla genovese? Aglio, prezzemolo o pinoli? Prezzemolo. Chi ha vinto il Festival di Sanremo quest'anno? La so, aspetta, la ragazza, come si chiama? Si chiama come un frutto che non c'è alla bancarella. Mango. In che regione italiana si trova il Monte Grappa? Veneto. Quanto tempo deve passare prima di fare il bagno dopo aver mangiato? 3 ore. 3 ore addirittura. Anche se una leggenda. Quale storica classifica è tornata quest'anno al Giro? L'Intergiro. Chi interpreta la canzone Sarà perché ti amo? Dimmelo tu. Ricchi e poveri. Ricchi e poveri. Chi è il telecronista del Giro sulla Rai? Cassani e Pancani. Come si chiama il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio? Non seguo il calcio, no, però lo so. Va bene, comunque 8 dai, su 10 bene, direi che sei buono. Promosso, hai è passato buono. Il test, grazie. Complimenti. Grazie. Ciao, buona giornata. L'ultimo incontro della mattinata invece è per la colonna Costume e Società. Dopo il fact-checking ci siamo messi a parlare di fashion per la gioia di Kautz con David Decker dell'Arkea. Lo abbiamo incontrato e, sapendo della sua passione per le sneakers, gli abbiamo chiesto appunto se, visto che le ama tanto, fosse triste ora che deve indossare gli scarpini da ciclismo. The cycling shoes not necessarily, but I miss my sneakers for the next 3 weeks. How many do you have? I think I will have around 60-70 pairs, I think, at home. Yeah. Which one is your favorite pair? I like Jordans in general, so definitely a Jordan 1 model. So now that you wear cover shoes, would you ever put them, your cover shoes, on your sneakers? Actually, if it would be a weather like today, where it's chances of rain, I would not put my the most special shoes on. So I wouldn't need the covers, but I would choose wisely to take which pair. What's the exact pair that you would sort of put with your jersey? Yeah, the jersey and the color of the bike is a bit different, of course, with the right. Celeste from Bianchi, but with the jersey, definitely the Jordan 1 Chicago. I bought it 2 years ago, so I think it goes perfectly with the red from the team. Allora, ci ha risposto che, insomma, non è necessariamente triste di indossare gli scarpini da ciclismo, ma sicuramente gli mancheranno le sneakers per le prossime 3 settimane. Gli abbiamo anche chiesto quante ne hai. Ci ha detto che pensa di averne circa 60-70 paia a casa e appunto ovviamente non potevamo che chiedergli qual è il tuo paio preferito. Gli piacciono le Jordan in generale e quindi sicuramente le Jordan 1 mono. Se volete vederle, queste e tante altre, lui ha una pagina Instagram dedicata esclusivamente alle sue scarpe, con tantissimi followers, migliaia di followers, in cui lui pubblica post e storie sulla sua collezione di sneakers. Incredibile, tra l'altro il fatto che Decker ha circa 59-69 paia di scarpe da ginnastica più di me, che ne possiedo uno, e non gli ho fatto nessun social per fare così, per propagandare le mie scarpe. Gli abbiamo chiesto poi, ora che oggi tra l'altro c'era già pioggerellina appunto alla partenza, ora che indossi le sovrascarpe le metteresti mai sulle tue sneakers? Ci ha detto che beh, in realtà con la pioggia un paio che gli piace forse no, ma sicuramente non metterebbe le sue più speciali, non gli servirebbero le sovrascarpe, ma sceglierebbe con molta attenzione quali paio di sneakers mettere. Gli abbiamo alla fine chiesto quali sneakers abbinerebbe alla sua maglia. Allora, la maglia e la bici, ci ha detto, hanno due colori differenti, cioè il celeste e bianchi, ma con la maglia assolutamente le Jordan 1 Chicago. Le ha comprate 2 anni fa e pensa siano perfette con il rosso della squadra. A questo punto gli abbiamo detto, vabbè, alla fine ora bisogna parlare della cosa meno importante, del ciclismo. Quindi gli sprinter in questo giro sono molti e sono veloci. Gli abbiamo chiesto appunto, lui che ha caratteristiche veloci, che cosa ne pensa. Yeah, no, you could look at it as maybe a bit scary, but actually it's really motivating as well to be in such a competitive field in terms of sprinters. So yeah, I think it only motivates, and only when you get a result as well, I think it only makes it more impressive or more important. David, thank you and good luck for today. Thank you, sir. Allora, ci ha risposto, sì, potrebbe sembrare forse un po' spaventoso in qualche modo, ma è anche molto motivante essere su un terreno così competitivo in termini di velocisti. Ti motiva sempre, potrebbe farti raggiungere un risultato e solo rende tutto più significativo e più importante. Quindi l'abbiamo ringraziato e gli abbiamo augurato buona fortuna per oggi, che tutto sommato ha funzionato perché il suo velocista è arrivato quarto. Suo velocista che è Biermans, che ha preso quest'autobus non gratuito, perché penso che si paghi il biglietto, spero che si chiama Milan, spero che i prezzi non siano quelli dell'ATM di Milano. Comunque è salito sull'autobus di Jonathan Milan, si è messo in scia e secondo me è sempre una grandissima tattica quando si fanno le volate, perché seguire quelli buoni magari non sempre porta a vincere, ma porta a ottimi piazzamenti. Questo è un mio consiglio, che non ho mai fatto una corsa di bicicletta. Ci sono invece corridori che di consigli e di conoscenze ne hanno parecchi e possono illustrarci quello che succede al Giro d'Italia. Uno di questi è un pozzo di scienza. La quarta tappa del Giro d'Italia 2024 parte sempre dal Piemonte come le tre tappe precedenti, ma ci condurrà poi in Liguria. In Liguria arriverà precisamente ad Andorra. I primi 100 km sono tutti in leggera strada che sale, e fino al chilometro 107 si rimarrà praticamente sempre in delle vallate abbastanza strette. E da lì si affronterà il Colle del Melogno, una salita comunque piuttosto pedalabile, dopo un'altra parte vallonata, una parte di picchiata che poi si collegherà tramite un altro tratto di 5-6 km piuttosto pianeggianti al Colle di Cadibona. Da lì si comincerà già a sentire il profumo del mare. Tanti ricorderanno il Colle di Cadibona, per quanto studiato magari alle elementari, come il colle che separa le Alpi dagli Appennini. E da lì ci sarà una lunga discesa piuttosto pedalabile verso Savona, fino ad affrontare gli ultimi 60 km che ricalcano una parte del percorso della Milano-Sanremo. Saranno comunque per 60 km piuttosto pianeggianti, con degli attraversamenti cittadini a cui prestare attenzione, ma soprattutto il finale sarà tecnicamente molto particolare, perché da attraversato l'abitato di Legueglia a circa poco meno di 5 km all'arrivo ci sarà spazio per il Capomele, che è comunque una salita molto pedalabile, ma che conduce scollina fino ai 3 km all'arrivo. Quindi gli ultimi 3 km saranno praticamente tutti in discesa piuttosto rettilinei, e giusto l'ultimo chilometro spiana per essere pianeggiante, ma la velocità sarà altissima e sarà l'arrivo sicuramente più veloce di questo Giro d'Italia. E allora ringraziamo come sempre Domenico Pozzovivo per la sua presentazione della tappa di domani. Un giro rapidissimo di pronostici. Parto io, domani pronostico il riscatto di Jonathan Milan. C'è un velocista che abbiamo forse un po' trascurato oggi nei commenti, nei dettagli, è andato molto forte però, che è Biniam Girmay. Domani c'è Capomele, a pochi chilometri dall'arrivo, bisogna essere un po' resistenti. Secondo me Biniam Girmay è il nome perfetto per domani. Io come al solito invece butto il cuore oltre l'ostacolo, oltre il traguardo, niente tecnica, ma visto che arriviamo verso casa mia dico Laurence Pitti, perché la FDG oggi era comunque molto croccante. Io continuo a fare la stessa domanda, perché effettivamente comincia a avere un senso quello che non si può dire Pogacar anche nelle tappe per velocisti. Io ve l'avevo detto, non oggi, diciamo Pogacar. Oggi a 500 metri all'arrivo era ancora lì davanti. Non so se possiamo ripeterci almeno tra noi? Sì, quello è consentito, okay, dai. Perché io anch'io mi ero memorizzato il nome di Biniam Girmay. Benissimo, allora domani scopriremo chi vincerà la tappa con arrivo ad Andorra. Scopriremo anche questo atteso nuovo singolo di Luca Pedalini, l'autore di Tutti vogliono un bincio. Arriverà domani e posso svelarvi una cosa: a me arrivano le informazioni un po' col contagocce. Riguarda uno di noi, è una canzone dedicata a uno dei componenti della squadra di questo podcast. Ma Leonardo, quindi dobbiamo fare il pre-save e possiamo dire a mezzanotte fuori ora? Non so che ora, adesso non ho tutti questi dettagli a disposizione, ma domani nel nostro podcast ce l'avremo, questo nuovo singolo. Se è rap o hip hop, Pogacar ascolta quella roba lì, per cui potremmo... Anche a casa Thomas Alzini. Infatti un mega concerto potremmo organizzare alla fine di questo, no? Una Woodstock del Giro d'Italia. E finalmente sarebbe il tuo primo concerto, volesse Dio. Allora, prendiamoci del tempo per organizzare tutta questa cosa. Ci trovate, come sempre, sui canali social di Alvento, di Bidon, i canali social, il gruppo Telegram, c'è la newsletter di Alvento che esce ogni mattina, leggetela perché ci sono un sacco di contenuti, alcuni dei quali scritti anche dal nostro Michele Evaristo Giampiero Pelacci. Sì, più o meno. E noi ci risentiamo domani, forse, se tutto va bene, ceniamo questa sera, non lo possiamo dare per scontato. Nel frattempo, come si dice in questi casi... Nel frattempo, rinnovando i nostri ringraziamenti a Shimano che ci supporta in questo viaggio, al Vento che ci fa compagnia quotidianamente su tutti i canali, come si dice in questi casi, au revoir. Buona bicicletta.